Un buongiorno a Antonio Beralli e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io partirei un po' dal principio. Come nasce quest'idea, questo progetto di Leila, una biblioteca degli oggetti qua a Bologna? Guarda, l'idea io l'avevo trovata su un trafiletto dell'Internazionale qualche anno fa, ormai più di 5 anni fa, di questa iniziativa nata a Berlino in una saletta condominiale. Eravamo in pieno periodo Bataclan, quindi un periodo veramente molto molto duro. A livello internazionale, dove le persone che non si conoscevano venivano guardate con sospetto, eccetera. E io mi sono fatto una semplice domanda, ma avevo voglia di diventare papà e mi sono detto, ma è davvero questo il mondo in cui vorrei far nascere mio figlio e mia figlia? E la risposta ovviamente è stata no, e quindi mi sono detto, ma perché non portare un progetto come questo nella mia città, a Bologna, basato sulla fiducia, quindi esattamente quello che, di cui avevamo bisogno, un po' un antidoto. E ahimè, insomma, diciamo che la fiducia è un po' un filo conduttore di questi ultimi anni, anche la pandemia, se vuoi, ci ha messo un po' davanti a questa, di nuovo a questa sfida, no? Riavere fiducia nel futuro, tra di noi. Il primo lockdown è stato un esempio su questo, no? Di quanto ci mancasse il vicinato. Ecco, questo è stato il motivo per cui ho cercato di far arrivare la Biblioteca degli Oggetti a Bologna. Come funziona nella pratica questa biblioteca degli oggetti? Allora, il funzionamento è molto semplice. Si fa un tesseramento annuale da 20 euro e si mette in condivisione un proprio oggetto. Pensa a quanti oggetti noi acquistiamo e poi per la maggior parte del tempo rimangono chiusi in cantina o in un armadio perché magari lo utilizziamo poche volte all'anno. Ci sono degli oggetti stagionali, come possono essere gli sci, oppure degli oggetti che ci servono per delle lavorazioni particolari, il famoso trapano, no? Quindi metto in condivisione uno o più miei oggetti, in cambio posso usufruire di tutto quello che altri hanno messo a disposizione aderendo al progetto. Lo prenoto online, vengo in via Serra, dove abbiamo la sede, in via Serra 2G, e lo prendo, lo utilizzo e lo restituisco senza pagare nessun altro costo, è tutto gratuito. Alla fine dell'anno, se voglio, rinnovo il servizio oppure mi riprendo, l'oggetto che avevo messo in condivisione, quindi non si regala niente. Leila è uno strumento che invita a riflettere l'idea di possesso. In fondo io ho bisogno di fare un buco nel muro, non ho bisogno di possedere un trapano. Certo, assolutamente. Infatti, oltre all'utilizzo pratico, secondo te che cosa comporta questa condivisione degli oggetti? Guarda, quello che scatena, diciamo così, è esattamente quello su cui noi puntiamo più di tutto, perché Leila è sicuramente uno strumento economico, nel senso che mi fa risparmiare denaro, posso utilizzare al posto che acquistare. Incide molto sulla riduzione dei rifiuti, ovviamente, e aiuta a ridurre l'impronta ecologica di ognuno di noi, ma soprattutto ha un'accezione culturale molto forte, e cioè quella dell'appunto, oltre a riflettere sulla logica e sull'idea di possesso, come dicevo prima, inizia a scoprire, a far riscoprire l'altro come risorsa. Siamo stati abituati troppo negli anni precedenti a inseguire il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, no? Dovevamo bastare a noi stessi, essere indipendenti e avere bisogno era quasi un'onta. Invece no, cioè avere bisogno degli altri è una cosa bella, ci arricchisce, ci completa, perché gli altri possono essere utili a me e io agli altri, quindi è una sorta di valorizzazione collettiva. E poi aiuta molto anche nella responsabilità di quello che io ho in mano, cioè il fatto di avere in mano un oggetto che non è mio aiuta ad avere un'accezione positiva, perché anche questa sembra un po' una sciagura ultimamente, della responsabilità. È bello prendersi cura degli altri attraverso, in questo caso, gli oggetti, ma in realtà non sono gli oggetti, no? Quando io prendo in mano un oggetto che è di qualcun altro, io mi prendo cura della fiducia che lui ha nei miei confronti. E quindi ha un'accezione appunto culturale molto importante. Certo, completamente d'accordo. Senti, ma una piccola curiosità, l'oggetto più richiesto in assoluto qual è? Assolutamente il videoproiettore. È un oggetto di punta, ovviamente, messo in condivisione ormai da 3 anni ed è più le volte che è fuori, diciamo così, che, no, che a casa. Se ci pensi è veramente un oggetto, cioè, bello, no? Costa più o meno 350 euro, e non ha senso investire soldi su uno strumento che magari utilizzo qualche volta, non è che tutte le sere mi proietto il film. Eppure anche in questo periodo di lockdown, ad esempio nel primo lockdown dell'anno scorso, una mamma lo ha preso per un mesetto perché in condominio c'erano 3-4 bambini, proiettava nell'androne e almeno si passavano un pomeriggio diverso. Lo prendono professionisti per fare delle presentazioni quando si potevano fare, ma lo prende anche lo studente universitario per guardarsi a finale di Champions o un film a casa con i coinquilini. Sì, è molto richiesto questo oggetto. E poi anche gli oggetti sul fai da te, cioè il famoso trapano che viene sempre preso da esempio, effettivamente è uno di quegli oggetti che va molto.